sulla sinistra, dove c'è quella specie di gradino vicino a via delle muraglie, buh, sotto quella specie di piazzolina, lì si vede un'antenna di fronte a San Arredi, un po' più in giù, con l'antenna sulla sinistra, di gare. A Giulia, attaccata al barazzo. No, cioè per esempio tu andando verso il cavalcavia, scendendo dal mercato verso il cavalcavia, corso Trinità, arrivi a un certo punto che c'è una specie di piazzola sopraelevata con dei gradini, di fronte a lì c'è, non di fronte, di lì all'interno si vede un'antenna, di gare? Ma una boomerang per caso? No, una verticale, a meno che non ci si sembra una di queste Game Master, boh, non lo so, magari è un'antenna vecchia, non lo so. No, non lo so, non lo so, robe. Quello è Natalino, già lo sai dov'è. Ok, dai, che è pronta la pizza, ci sentiamo dopo, ok? Non lo so, altro, perché adesso tra poco inizia la partita, vado a vedermela, dai. Buon pranzo, buona cena e buon tutto, dai, ci sentiamo, magari se coincide domani. Ciao, ciao, io rimango acceso qualche minuto e poi passo in corretti. Ciao, ciao. Ok, robe, dai, io scendo giù a vedere. Ciao, ciao. Tu allora, la stavo dicendo perché l'ha cambiato postazione. Sono arrivato adesso a casa. Antonio non c'è. Antonio è andato a mangiare la pizza, io adesso faccio un po' di ora, perché poi alle 9 c'è la partita, la finale Atalanta-Juventus. L'ultima partita? La finale Coppa Italia, la danno a Rai 1, a chi interessa. Ah, io sono anti-Juventino. Tu eri interista a me, Mario, o sbaglio lui? Eri, sono uno, vedi. Quindi sei contento, chi sta andando a dare, anche se l'altro giorno è andato a dare la Juve, cacchio, ogni arbitraggio balordo, ogni mafia che vira. Lo so Robè, l'Inter quest'anno ha dominato, dai. E non poco, ha dominato, anche Claudio l'ha detto, ma comari, dai. Stavo aspettando un coso, sai che cazzo ne ha fatto, tagli la bagaspa, un panarello di quelli che scrive sopra i CD, sparito, Questo è sempre il tuo baracchino solito. Ma questo è il 3009. Ecco, c'hanno una bella radio questi 3009, ne ho sentito un bel l'altro giorno anche in propagazione, tutti questi 3009, c'era questo qua, poi c'aveva, può essere 9009, esiste? Ah boh. O 6009, non me la metto. 6009 sì, e quello è a coso però, a, come si chiama? MSD. SMD. SMD, non ti la parola, sì. Ehi, dimmi una cosa, il microfono che ti stai utilizzando? È lo stesso, un MP4. Una bomba, è una radio bellissima, l'ho sempre detto. Ma anche con quell'altro, cos'era, il Pluto, lo stesso, una bomba di radio, eccezionale. Quello modificato me lo sono venduto. Te lo sei venduto? Cosa ne fai? Ma certo, non gli piace, non l'ecco, quello, non è per quello, non l'ho venduto per quello, l'ho venduto perché... Se io lo so, dirò, beh, una spesa un po' altina, capito? Naturalmente ci sono cose più importanti della radio, no, è molto ricercata quella radio, come Saturneco, sono molto molto ricercate. Adesso parlando di radio, io ho quel patch, non so se te l'avevo mai fatto vedere, quello trazione base che c'è al frontalino, ti sembra un amplificatore audio in alluminio con i tre strumenti, ho visto le valutazioni, ti metti le mani in testa, negli Stati Uniti li stanno cercando, c'era uno che sta vendendo $900 e l'altro gli ha offerto 800, ha fatto giro il brigio, ho detto cacchio. L'ho girato io. No, non è quello che hai mandato tu, è il Ruiz, quello con le spondine in legno. È molto simile al tuo, però è tutto in alluminio. Il frontale è una lastra di alluminio grossa. Ci assomigliano molto come tipologia di radio. C'ha il manopolone per cambiare i canali, per gli strumenti, l'orologio. Anzi, il Ruiz l'orologio non ce l'ha. E ci assomiglia un bel. E ho visto una valutazione, questo qua negli Stati Uniti, €900. E c'era un altro, gli stavo offrendo €800. Non euro, dollari. Vabbè, ma c'ha la valutazione. È quella, sono valutate. Ma le stanno rispolverando le radio vecchie, vintage, su quelle parliamo, quelle vecchie vecchie, anni 70, anche DAC, è quello il DAC, che chi ce l'ha se lo tiene, costa un bel di là. Queste radio così a transistor, però quarzate con i quarzi dentro, eccetera. Le stanno rivalutando tanto, perché sono belle pesanti, materiali buoni, di qualità, non è mondezzina, dai, perché poi ci sono quei baracchinetti che sono usciti poi successivamente e sono scatoloni vuoti. Avanti il break. Buonasera, 7351 qui dalla provincia di Catania. Sì, buonasera, qua Roberto, città di Sassari, in compagnia di Luca. Non ho capito la città e il nome, se vuoi ripetere. Roberto, buonasera, qui Nunzio dalla provincia. Sì, ben sentito, 9 più 10 il tuo segnale, Nunzio, radio ottima, perfettamente copiato. Ti rilancio l'amico Luca qua, avanti Luca per Nunzio dalla provincia di Catania. Non so se mi ascolta, ciao Nunzio, salutoni, buonasera. Da parte mia sei molto più basso, avanti, ci hai copiato? Sì, Luca ti ascolto un po' più bassino rispetto a Roberto, ma arrivi tranquillamente. Vuoi dirlo che tipo di apparato utilizzi, che microfoni hai e che antenna, Nunzio? Mia, una Sirio 2016 e un Cerottino 2009 con il suo mic originale, avanti per te. Complimenti, ottima radio e ottimo segnale. Luca, infatti mi ricordavo bene, CTR 9009, la radio che ho sentito l'altro giorno in propagazione. Ti rilancio a Luca, avanti Luca per l'annuncio. Sì, positivo, positivo. Già lo ascolto, dai, ti ascolto abbastanza bene. Da parte mia, MB più 4 con 3009 Superstar e come antenna molto va 5, avanti. Ma coglioni! Comunque stai andando alla grande, considerando che non sento nessun altro qua. Tu sei 9 più 10 costante il tuo segnale, se vuoi darmi anche un rapporto da parte tua verso di me, ti ringrazio. Avanti a te di nuovo Nunzio. Ti rilancio, c'è Antonio, un amico qua, avanti Antonio per Nunzio da Catania. Casa Nunzio, qua 9.10 a Radio 5, a Bomboletta. Buonasera. Buonasera anche a te, dai, tu 7.8 oscillando, avanti per te. Cappa, qua io esco con una Ringo Lam, apparecchio e un Kenwood. Sì, modello 140. Sì, so che vanno da grande questi 140, poi questi sette sono magnifici. Ok, vi saluto perché vado a cenare. Sì, ben sentito anche da parte mia, Nunzio, ti ascolto sempre tutti i passaggi ultimi, perfetta radio e ottimo segnale, niente da eccepire. Ok, ci sarà un momento nuovo Mario per riascoltarci, ti auguro una buona cena e buon tutto. Avanti Luca. Ciao Nunzio, dai, salutoni, buona carica e buon tutto, alle prossime, dai. Saluti dalla Sardegna, ciao, avanti. Cappa, salutoni Nunzio, ce la risentiamo le prossime, salutoni dalla Sardegna, Sassari, Cappa. Dai, io vado giù, torno a mangiare, lo sento benissimo. Ok, dai, continuate, che io vado a mangiare un altro pezzo di pizza e poi vengo. Mi ricordavo anche 9.009, hai visto che bella modulazione Luca, quanto ti arriva a parte lui? Sì, oscillante, era 5, 7, capito, ma lo sentivo bene comunque, dai. No, guarda, 9 più 10, non è mai sceso da 9 più 10, proprio sembrava qua, infatti pensavo fosse Natalino, figurati, all'inizio pensavo fosse lui, e un po' più basso di Natalino, probabilmente ha toccato qualcosa all'antenna, pulita, perfetta la radio, e col microfono originale tra l'altro, veramente una bella radio. Ti conferma, che insomma, non senti, ma alle 9 devo prendere l'antibiotico. Avanti Siracusa, città di Sassari che risponde, avanti. Sì, ciao Valentino, ben sentito qua, operatore Roberto, città di Sassari, in compagnia di Luca e Antonio, un attimino si è allontanato, ti rilancio a Luca, avanti Luca per Valentino. Capo, ciao Valentino, salutoni, non so se mi ascolti, avanti. Roberto, salvo un attimo, che il segnale è arrivato a noi, 10, devo dire che... Eccomi qua, sono rientrato, buonasera amico Siracusa, Antonio da Sassari. Ottima radio, che apparato stai utilizzando, mi dici? Niente, sono veramente, sto uscendo qua, 4 volte, No, complimenti. Questo passaggio 9 è antenna, che antenna utilizzi? Ok, ti saluto, ti rilancio gli amici, ti stai arrivando perfettamente. Bella radio, complimenti anche all'altro amico di Catania. Veramente si è aperta la propagazione verso la Sicilia. Ultimamente è molto forte il segnale. Di nuovo a te Luca. Ah, ma confermo, dai, gli arriva bene. Avanti, tu, un attimo, sto facendo un controllo di un computer. Tu sei Luca? No, sono io, sono. Hola. Attenzione amico di Catania, Coppi Antonio. E c'è l'accusa Antonio. E l'accusa Coppi Antonio da Sassari. Aspetta, aumentata adesso. Stavo controllando qua la regolazione. Dai, nella speranza che mi ascoltate adesso. Antonio qua, vi ascolto forte e chiaro. Ehi, AKK, dai. Adesso ho cambiato parecchio. Qua la cosa è tutta più migliore. KK. KK, Santiago 7, Radio 5. Valentino, guarda se mi copi a me, guarda, quasi 9 più 20, dammi un controllo anche a me di segnale e di radio. Roger, 8, radio 5, tutto Roger. Ok, 9.15 questo passaggio, tu pulitissimo, complimenti. Appaga, anche qua Santiago 9.10, radio 5. Qua la cosa è tutta roccia, qua le valvoline stanno scaldando, Ragazzi, qua inizia a far caldo, Appagappa, anche qua comincia a fare caldo. La lancetta sta andando tutta a Roger, Lo vedo, qua Santiago 7. Sembrate qui in provincia, Appagappa, più va e più lui si arrabbia. Diventano di colore giallo. Ah, quindi non rosso, addirittura giallo. Rosso, giallo, dai, rosso, dai, diciamo rosso. Dai, il più piccolino sono io, comunque, di lì a Siracusa. Non si direbbe, l'8 lo raggiungi tranquillamente, Santiago 8 da parte tua, il passaggio precedente all'inizio anche 9.10. L'ultimo passaggio tuo, qua sei arrivato 9 più 10, si è alzata ancora di più la propagazione micidiale, sembri qua sotto casa, modulazione stereofonica, complimenti. No, c'è qua ora 9.5. Anche qua sei fortissimo, avanti Luca, fai sentire i tuoi motori, dai. Tanto là, sono impegnato io qua, là, prendete voi. Comunque arrivi benissimo anche qua Valentino, tranquillamente. Io sto andando con 5 watt, dai, con un 3009 Superstar MB più 4 modificato e l'antenna la Mantova 5, avanti. E Roger, però Santiago 5 era 10 da parte tua. Veramente anche tu sembri in provincia, come se fossi qua a 20 km. 9 più 30 Valentino, ora hai superato tutti i limiti, che mi sto avvicinando piano piano, in realtà sono in una barra nautica, scherzo ovviamente. Appagappa, qua sei una bomba, sei, lo so io come ti arrivo lì in Sicilia, ma qua sei una bomba, avanti a te Valentino. E ci regala questo detto praticamente. Appagappa l'amico di Siracusa, dai, qua la cosa è tutta Roger, c'è un segnalone, c'è qua in Sardegna, avanti l'amico Roberto, avanti. Ehi, oggi è bella la propagazione perché non c'è confusione, per cui è molto stretta, limitata come tensione, per cui non ci sono sovramodulazioni. L'altro giorno c'era la Sicilia ma erano uno sopra l'altro, oggi è pulita, molto bene. Ok, sono contento di aver modulato prima con Catania, adesso Siracusa città o provincia, sì, Valentino? Però c'è Siracusa, però sono molto vicino alla città di Floridia, quindi considera. Verso presenti, anche se c'è qualcuno che qua sta sovramodulando. Comunque, sei riuscito a passare, comunque c'è un segnale dei 9 più 20, questo passaggio. Sei molto in alto di altezza, di elevazione, Valentino. Non sono neanche basso. No, paga, pa Valentino, dai. Qua la cosa è tutta roggere. Anche se c'è questo rompiballe qua in Sardegna che mette la portante. Però la cosa va bella. Senti un po', Destina. Mica lo so dove abiti mi. Su chi sei mi. È finita. O vengo lì. Ci sono un paio di corvette, ci sono dove abiti. Non mi rompo il coglione stanotte. Vabbè, non c'è problema, la parte vostra qua, superate la portante. Viene totalmente. Papà capo Valenti, già lo so, dai! Qua la cosa è tutta roggere, tutta roggere! Sardegna, io riesco a sentirti, in qualche maniera riesco a sentirti, No, io vi ascolto tranquillamente. Va bene, dai, comunque non ho questo contatto. Vi ringrazio, vi auguro una buona coltivazione, va bene? Mentre la provocazione è forte, così ci salutiamo. Piacere, con il Siracusa, gappa, ma dove vuoi andare? Ma non vedi che faccio due sentuvate in mezzo, ma dove vuoi andare a mettermi la portante? Vabbè, a Siracusa ti arriva questo malato, qua è tutto roggere, qua passi tu, sei passato tu, tutta la grande, c'è un segnale di 9 più 30 e radio 5. No, c'è positivo anche da parte vostra. Appunto, dove vuole andare? Qua comunque c'è una bomba, qua mi sta arrivando quasi a fondo scala. C'è una cosa impressionante adesso, Vuol dire che è tutta roccia! Avanti, Roberto! Sì, allora Valentino, ti ho copiato sotto, nonostante che ci sia questa portante. Ti saluto, è stato un piacere ascoltarti, ti faccio nuovi complimenti per il segnale e per la radio. Se capiterà, sarà sempre un piacere riascoltarti. Ti saluto e auguro una buona serata, buon proseguo. Ciao ciao, alle prossime. Ecco, ma io riesco a sovrastare la porta. Anto? Anturio? Aspetta un attimo che sto telefonando una persona. Ho detto Anto, se la passo la portante. Sì, la travolge la portante, io la passo. Attenti da mattana, ti sento di radio però ti dà molta mattana, perché non so se dovesse fischiare se ti passa. La faccio qua, metti buone, adesso sollevo ancora mia. Aio, gioca, ma con catena, gioca, aio. Attento, Roberto. Aio, do un altro giro, no, ai, gioca, scemo. Comunque l'amico che sta chiamando, un saluto, l'amico che sta chiamando. Aspetta, c'è qualcuno che chiama sotto, avanti chi chiama? Che cazzo, ma che gusto vi biglia rompi le balle, che gusto vi biglia? A me mi sentite? Buonasera. Che su per carità, cazzo, che ho più la cosa sa fare? Se ho più andato buio, ho fatto un raggio. Senti la chiave di cibo di Quella è quasi 9.30, Quindi si schiaccia a tutti, Tino, ciao, ben sentito. Ciao. Vabbè, lascio divertire, vuol dire che c'è un piccolo. Ah, il pisello piccolo. No, vuol dire che è corrotto, che è diverso. Qua disturba tutti, anche ad Antonio che c'è il segnale più forte gli dà fastidio, tranne che a Marco arriva a 9.40. La mamma è tutta gnoccia. A te ti schiaccia di brutto, sei 9.15, qua è oltre 9.20. Vabbè. Vai, poi mi te la faccio il culo, che al monte non ve la fai, vai. Buonasera a tutti quanti, buonasera. Buonasera, qua città di Sassari, operatore Roberto, compagnia di Tino, Antonio e Luca. Avanti chi chiama qua la città di Sassari? Luigi Scalda. Che avanti? Lasciamo scaldare un attimino, dai, sono magari non mi sentite. No, fa cappa, e no, che ti accadi, UM. Io dico che questo ci prende a rompere i coglioni. Ma se mi metto un abbiamo già trovato. Vabbè, Anto, capisci a me, dai, capisci a me. Che se li posso annigare. Ma che volevo fare? Vabbè, non facciamo parlo tutti i lati in pari. Chi è? Ma brutto pezzo di capo, ma la pensione te la vuoi godere o ti pacco un capo, scemo? Quindi è un pensionato. È un pensionato questo qua, chi è? È quasi pensionato, eh. A me rompere il coglione dall'altra parte, mi rotto il coglione, mica stasera sono ubriaco. Mica t'ammazzomi, dove cazzo sei, mica t'ammazzomi. Pezzo di merda. Vai a tu, vai, dalle mattane. A tu. Ma rompermi il coglione. Vattene via, non c'entrare più in radio, mi fa un piacere, non c'entrare più in radio, anche quando entrare buono, non c'entrare più, non mi arrete i coglioni stasera a me. Tanto stai bravo, non ti preoccupare. Dai, ce l'ha con Antonio, abbiamo capito. Vabbè, ha migliorato qualcosa? Sì, 9 più 20, da 15 sei passato a 20. Lasciamo scaldare allora. Che prendo un cazzo il metro, sto salendomi. Cazzo brutto un gabbo di cazzo, ma che non so cugarsi in me. Vai tu, vieni a prendermi, aiuto. Ma io dico, guarda, che questo è figlia, è quello. Mi domanda e dico, che questo ci prende? Boh, non lo so, che non... Sto pensando che questo ci prende a rompere le balle. Se una persona magari è tutto il giorno al lavoro, si vuole fare due chiacchiere, perché ti imbecille, cazzo, mongoloide. Sentiamo poi sapere i mongoloidi, eh. Buonasera amico! Vieni a prendermi che ti buttiamo giù a forza, porca miseria! Sì, ti non ho bisogno di andare, vai già batti giù! Io dico no, la mia domanda è, che gusto ci prende? Punto di domanda! Ma che è un miserabile, cioè ma cazzo, ma quando mai uno? Ma entra e fa vedda, non rompere le balle alla gente, cazzo. Entra e parla, del più e del meno. Cazzo che nessuno ti ha fatto niente, cazzo sono un maraddu, sì. Sei maraddu di menti e buh. Vabbè, sai cos'è, ci si fa il gioco su, tu. Ti guardi in casa e tu ci arrivi, compreso. Poco da ridi fa. Guarda se c'è a Pinocchio come intero voto stasera. Manco più i parenti lo riconoscono, cazzo, come lo faccio io, perché sono indemoniato me. Ma quindi lo vuoi tu ma fare? Tu ma fare, ricordo la giusta che manco quattro accusa. Pensa tu mi hai fatto da Zulu. Ma stiamo pensando alla stessa persona. Ma devo fare il nome e cognome. Aio. Che carità, cazzo, veramente, devo curarti tu. C'è un tatugretto, ma vedi come? C'è un tatugretto che mi ha piaciuto una volta per me l'impiccato, in un braccio di casa Giulia. Non è uscito da poco l'operare. Sì, a quanto mi risulta. Fatela brava, eh. Cappa, cappa. E basta adesso, basta veramente. Ora. Avanti, chi chiama? Sta aumentando, Roberto? No, più o meno come prima, Aspetta che provo a accordare, Vediamo se cambia qualcosa. Vedi un po', guarda un po', 1, 2, 3, prova. No, qua è quasi invariato, è impercettibile. Tanto si arrabbia già il tuo, già sei poco nervoso, stai bravo. Cappa, cappa. Dai Giudì, tu fai arrabbiare altre persone, statene tranquillo. Già passa, dai. campo, ma come vent'anni commento la voce, adesso basta, uff, nella scatola è piena. Tanto vorremmo che fare un infarto che ci farà a te. A me vale infarto, a me no. Se così da noi quando muori pisciamo pure la vara. Così facciamo la benedizione. Oh Luca! Oh? E quindi va bene, non ho detto, quanto può costare? Messo bene, frottature originali e tutto maniacalmente, quanto si può pagare? Ma io il mio l'ho venduto, mio ho abbastanza nuovo, qualche graffettino nelle carene, vabbè, per tirare lo sgabuzzino, come lo entravo, lo uscivo, entravo, io l'ho venduto 3,50, più passaggio. Ma perché, scusate, ma perché c'è bisogno di passaggio? Se il libretto cosa mica è fatto a te? Sì, io c'ho la targa nuova. Ah, bene, bene, ma infatti. Perché credo che la targa sia personale, o sbaglio? Non è più così, no. No, allora ti spiego, praticamente la targa ce l'ho io, la mia, però non serve più. È stata annullata da quella moto lì. E il padrone se l'ha fatta nuova e ha pagato 120 euro, compreso di passaggio. Ho capito. Cioè, vuol dire, ne vale la pena. Beh, se è nuovo, come stai dicendo, certo che ne vale la pena. Bisogna vedere quanto lo dà. Vabbè, intorno a 2,50, boh, non so. Vediamo, ma per me è piccolina, sembra... già lo sai, io se mi siedo non è che sfiguro. Ti vedi prima due poi la moto. Sfiguro, vabbè, vediamo se ce ne sono altre in zona. Riprendi Roberto. Eia. Beh signori, sta iniziando la partita, se interessa qualcuno, Juventus o Atalanta, proprio in questo momento io vado a vedermela. Vi saluto a tutto, fate la bravi, mi raccomando, se no non vi voglio più. Ciao a tutti, ciao Tino, Antonio e Luca. Appa, ciao Roberto, ce la risentiamo. Eia, ciao Roberto, alla prossima, ciao. Un attimino di bianco per me. Ciao Roberto, alla prossima, ciao anche Marco, c'è. Che è entrato a dire qualcosa, vabbè. Non puoi venire per carità. Vabbè, tanto non ti fa niente. Roberto neanche. Quelli più bassi che fa qualcosa. Qua mi arriva tipo 9,10, così, 9,15. K, a me arriva 9,20, mi arriva la portante. No, a voi niente. E chi c'ha tutti? No, tu voi schiacciate, la schiacciate la posso, ma tu lui la schiacci, la calpette. Perché siamo vicini, capito? Dai, computer ho finito, ecco qua. E io quanto? Tu sei 9,20 lo stesso. È importante quando ti arriva. 9,20 mi arriva quasi. Aspetta, mi accordo. Ah, quasi, aspetta. Aiuto, prova a mettere la portante, Ciccio. Udito te. Aiuto, prova, dai. Lo devo venire a bussare la porta. Se questi sono i tuoi divertimenti, guarda, mi meraviglio di te, dopo tanti anni di radio che hai fatto. Se quelli sono i suoi divertimenti. Lasciamo siamo la pistola e ci yuga, un poco paromeno. Ma sai, io ho sentito che dopo la pensione non è che quello come prima il giocattolo. Adesso non mi piace il bullo, me va, non sono più che sicuro. Della Sicilia, la provincia di Siracusa, il messaggio Romino chiama e passa l'ascolto. Attenzione alla grande isola della Sicilia, si ascolti dalla grande isola della Sardegna, cambio passo. Sardegna c'è antenna, con la buonasera, qua l'operatore Angelo, dalla Siracusa con il messaggio Romino. Capo Angelo, salottoni 7351, qua l'operatore Tango India November Oscar, nonché Tino Muscolo, dalla città di Sassari, ok? Ok, mi sembra che il tuo pseudonimo, il tuo nome, Sandro mi sembra, ok? Ah, ti ho sentito malissimo. Non sei tanto buona, però si capisce, sto modulando. Avanti Sandro della Sardegna. Non Sandro, no Sandro, negativo. Ho detto Tango, India, November, Oscar, ok, Tino. Sardegna, interessante copiarci, tutto qua. Cappa, positivo, dai, ti saluto, ciao, ti mando un amico, vai, Antonio. Cappa, salutone, un amico di Siracusa, da Antonio da Sassari, cappa. Attenzione, Siracusa, copia Antonio che fa chiamata, cappa. Amico, purtroppo questo canale purtroppo, e quindi ho capito che ti sotto modulazione, già io ho fatto la carta, vuoi passare canale 11? Quindi Siracusa, qua c'era una ruota, ti ho mandato avanti un amico, ok, Antonio Bombo, lo ascolti? Mi sembra che hai detto Antonio Cobra, ripeto che hai chiamato Siracusa. Mi sembra che da ho capito Antonio Cobra. Antonio Bombolo da Sassari, buonasera. Antonio Bombolo, io vuoi, c'hai prosciutto. E purtroppo quanto in tanti qua si accusa e ci sono troppo sopra modulazione. Tutto qua. Tanto, non per dire arrivo, entrambe tutte quelle. Circa 50 km verso il sud, sulla punta estrema della Sicilia sud orientale, nonché ripeto, verso il sud della Siracusa. Piacere di avervi ascoltato anche un po' male, ma vi ho ascoltato un po' tutti. Capo, Siracusa, vi copia Antonio da Sassari. Cappa Catania, ti copio, vieni avanti. Aspetta tu, Salvatore, canale 11, Salvatore, canale 11. Attento Salvatore, c'è tutto qua, Giulio. Ah, tu che bacigli, antibiotico, che stava su posta a fare? Ega Passigli, buonasera Catania, Ega Passigli lu. Perché domani devo andare al dentista, sto prendendo l'antibiotico. Cosa ti ha dato il coso, come ti cazzo si chiama? Il cavoli, il segato di Passigli. È gigantesca, mamma mia, ma che tu la supporta? Non ti muore a fuoco, cazzo. Era Gaura da dado. Cappa, chi è che chiama la Sardegna? Avanti! Avanti sull'Italia, avanti sull'Italia, qui operatore Antonio Bombolo da Sassari, buonasera! Cappa, buonasera, qui Antonio da Sassari che fa chiamata, buonasera. Cordialità e saluti, c'è anche l'amico Luca, c'è. Avanti Luca. Ci accordiamo. La massa che non è varia, ancora arrugliazzati, insomma. Sì, anche questo ci mette molto a raffreddarsi. L'inverno fa piacere, ma d'estate. Che cazzo! quante ne ha dentro? Due, tre, quante ne ha? Due. Oh, io, il Giambo e Bari ne aveva tre, no, se non ricordo male, il Giambo aristocrate. Minchia, ma cazzo, quando anda, cazzo. Più scalda e più pompa, cazzo. La mazza che non è varia, è da giuro. Hai da giuro. Ma poi in genere molti escono saturi, invece stai riuscendo bene, stai riuscendo, Conta che siamo anche vicini. Cos'hai su da giù? Buonasera. Buonasera, poco fa ho fatto un po' di bordello. C'è la Sicilia, buonasera a tutti. Ciao, Eugenio, sì? Io ho l'onore di parlare, ma con la faccia dei microfoni. Ciao Eugenio, Franco, sono da Sassari. Ciao Franco, buonasera. Buonasera, è cambiata. Sì, c'è un po' di propagazione italiana anche, dalla Sicilia se non sbaglio, così è. Poco fa ho fatto Siracusa, ma uno mi ha detto 9 più stai arrivando. La mazza di Nivaria. sull'11 ci stiamo parlando. Stavo facendo un corso sull'11. Io l'altro giorno ho collegato Canaria, roba così, Portogallo c'era, la Germania, Francia, tutto intorno qua alla Sardegna. Cappa. Cazzo, quando ha detto 9 più, cazzo ero, vabbè, era al massimo, dai. Con 10 guanti, con quelli sto uscendo adesso. Molto di più. Ma poi lamentare. Non lo so, c'ho questa fobia. Aggancia, che ti ascolto male, porca miseria, c'è un po' il QRM e a volte ho difficoltà, se riesci a aumentare qualcosina per me è meglio. C'era un tedesco ieri in FM arrivava a certi punti a 9.20, è stata una cosa impressionante. Si chiude la porta e apre la finestra, Brecco. Avanti. Aio, ragazzi. Avanti, Brecco. Tino, avanti. Aspetta che non so se te lo stavo pompando poco fa, con Siracusa. Sono in saturazione? No, negativo, va bene. E io ho spento, se no i nocchi e ci rifummi i tessili. Che te si pure la bolletta, eh? Vabbè, là, ogni tanto bisogna giocare. Buonasera a tutti. Franco, mi sto dicendo che hai difficoltà a ascoltarmi, come mai? Qui per me Porto Torre è zona negativa, porca miseria, che l'antenna ce l'ho alla parte opposta del palazzo e quindi mi copre tutta quella parte lì. Sorso, Porto Torre, Dalghero, non arrivano, dai. Ma non ce l'hai sotto il tetto? No, ce l'ho davanti alla facciata l'antenna, capito? E rimane verso il giardino, verso la parte interna di Sassari. E quindi quella parte ce l'ho negativa. Billy, la verità è che Eugenio è piccolo, basso e nero. E voi non la conosco. Non la conosco. Ma neanche lui mi conosce. Quindi, buonasera, Non ti saluto perché mi sono offeso. Mi sono fatto credere che sei nero. È piccolo e basso. Piccolo, bisogna avere cosa intendi come piccolo. Piccolo perché sei lontano, quello piccolo. Scusa. Ma tu sei alto. Appena 1,80. E allora mi piace, ma con la bicchiera mi sto abbassando. E allora ti aspetto quando si invece. Una valgetta, la sotto mi ta. Bene ragazzi, dai, sono al PC, vi ascolto. Mi fa sempre piacere ascoltarvi, sono entrato a salutarvi. Io poc'anzi ti ho sentito che stavi parlando, dove? Sul 17 se non sbaglio, impegnato in DX. Sì, impegnato, stavo salutando Siracusa, Palermo e quant'altro, dai. No niente, sono arrivato a 9.30 sotto. Ah no, un pendieri. 500. Sai tu. Anche io gli ho toccate, è arrivata bene, uia. Oggi sei fatto cambiare la bolletta a casa, oh mamma. Ma infatti adesso lo spengo. Io adesso sono 250 con picchi a 400. Addirittura, mi arrivi Santiago sì, vabbè, sono negativo, vabbè. Se stacco non mi senti? Addirittura, se lo stacchi non ti sento proprio. Guarda, mi senti adesso? Sì. Mi senti lo stesso? Allora il segnale è uguale. No, ho sbagliato io, scusa, guarda adesso. Ah, ok. ok, sì, ti sento lo stesso, ti sento. Sei Santiago quasi 3, come attacchi sei quasi 7, dai. No, invece di spegno l'ho messo in banda laterale, in SSB, ho sbagliato io. Naturalmente la Sardegna è rotto qua a Portodorra. Tanto tu sei sempre del solito, Santiago 5, fai gli attacchi. Ma l'altro giorno già sono arrivato a 8, te lo ricordi? Vabbè, certo, se attacchi arrivi più al 9, non è un problema. Mica un meme. Scusa, quanto è il mio segnale lì? Ah, 6-7, radio 5. Ok, adesso ho aumentato, sicuramente ho aumentato un po'. Sì, cerco di 8, là. Anche qua hai aumentato, adesso. Però c'hai un po' di picchi negativi. Picchi negativi, come è successo? Non lo so, guarda un po' aumentato, sì. Qui sale, però quando parli tende a scendere, o ti manca corrente, come che manchi alimentazione? Ciao. Probabile, perché... Sì, perché come modulo la lancetta dell'amperometro invece sale e scende, cosa vuol dire? Ciao Lu, qui scenditi, come che ti manchi potenza di alimentazione, non so gli altri come ti dicevano, boh. Vabbè, l'alimentatore, vai, sicuramente l'alimentatore. Ma no, ti ascolto meglio. Vabbè, è normale. Venga Luca. Ok. Un attimo, mi sto infinciavando, un attimo. Avanti, bombolo. Vabbè, tutto a posto, oggi tranquilli siamo. Sembra di sì, poco fa mi gioca arrabbiato. È tranquillo. Ma cosa? Perché torna portanti per lì? Prendi un dopo, ma vabbè, lascia perdere. Ma è cantata ancora? Non so benissimo guarda che poi è abortante, c'è tante storie, tante cose, ma è abortante, sapete chi è? Siamo in quattro, mi vado a Chino ancora, boh. Dai, uno che vuole fare lo stupido senza averne il diritto, ma spero che ci calmi e basta, e finisce tutto lì, guarda, accetto pure se si calma e la finisce lì, però questa cosa di vita vigliacata, di mettere la portante, a me non mi piace, se si calma e cosa, accetto pure quello e ci metto una pietra sopra. Anche io, dai. Guarda, mi butta la pietra in capo. Eri pure un marraggio. Ma ti blocchetti, la tua capolonna. Qualcuno c'è sotto? Sento propagazione. Io appena li sento, però non capisco nulla. Arriva Santiago 2. Forse sono in FM, buh. Non si capisce cosa dicono? No, non lo so. Tu li senti lì a Porto Torres? Eugenio. Sì. Ma li senti questi di propagazione? Cosa stanno dicendo? No, ragazzi, non c'è più nessuno. Noi già arrivano da noi. Ma io al porto ho messo i cancelli, la propagazione la faccio passare. Posto di blocco c'è lì al porto, alla dogana. E allora, se vogliamo passare a porto, se vuoi dare il dazio, se no niente. E allora? Ma veramente non c'è più nessuno. Io li sentivo appena, io. Pensavo che voi con l'antenna esterna vi sentite meglio, là. No, sull'11 ci sono, sento, mi arrivano a 9, 9 10, i siciliani. Aspetta che guardo. Pure qua poco fa arrivavano fortissimo. No, poca roba, sento qualcosa che si muove, ma nessun segnale buono. Anche qua 2, 1, così, no, niente di particolare. Già ho sentito come sta parlando con i siciliani. Mi arrivavano un bel forti qua. Qua ne arrivavano, ce n'era uno che arrivavano per 20 addirittura. Sul 5 c'è sento qualcosa, mi sul 5 è normale. Sì, è sull'11, non li senti più, se ne sono andati. Li sento ma bassini, proprio a livello di QRM. No, io già li sento forti. Parlato. Eccomi, sono di nuovo qua, scusate. Eccola lui. Ho sento lo scordabagno, che sennò era troppo la voce. Così è. Sì, sì, sì, questi sono 5 valvole che superano, sembra di più idracqua. Ma questa transistor non so quanto consumi, boh. Ma niente, quello in confronto a questo niente. Ma sono in varia. Non lo so, non l'ho mai controllato, mi va a vedere, fare una lettura in diretta nel contatore per quanto assorba, boh. Ma c'è un alimentatore a sarà 12 volt che trasforma la corrente, dai. Ma questo è più di una Ferrari. È un'altra storia. Vabbè, è bello utilizzato. Questa volta non sempre. Ma basta un po' di Mike Again. Devo passare? Un bel forte, qui te ne vado forte. Sono forte io, sono potente. Aspetta, devo vedere come cacchio è Mike Again. Ha abbassato, ora c'è anche mio figlio a voce. Ci siete tutto. Anche quei pulli che stanno cinguettando. Abbassa, abbassa, per me puoi abbassare ancora, Abbassiamo, andando. Voi, sempre voi. Aspetta allora. Faccio così, attimino. Per piacere. Adesso? Ma lui è fino a muscolo, per forza che fai queste cose. No, va meglio, a un certo punto si è sceso anche il segnale, poi ti sei stabilito di nuovo. Sì, lo so. C'è ancora sotto questa radio, aspetta. Ecco, guarda, forse adesso ha abbassato. Ma è la radio che è forte, è la radio che sta rimbombando, vedi? Cosa forte sono anche? Abbassiamo ancora le chiavi. Guarda adesso. Così va già meglio, No, io ti sento benissimo. Mattino. Guarda un attimino oggi. Vabbè, ho abbassato molto il Michelin, Vabbè, ma tu ci sente bene con quella cosa lì. Proprio la modulazione tua che potenza uscire bene, tipo Claudio. Ma va bene, va bene. Vabbè, tanto. Io non urlo neanche, quindi parlo sereno, tranquillo, e sono le corde vocali che fanno la differenza. Comunque tu ora non fai fatica a sentirmi, no? No, scusa, non ho capito. Ho detto che fai sempre fatica a sentirmi. Insomma, così al limite sono me. Perché il segnale è un po' bassino e con QRM sei quasi a... quasi ti copre a volte. C'è un po' qualcuno che parla sotto. Piazza per antenna nella gabbisturia. Sì, infatti non è che sia sempre colpa degli altri, è anche colpa mia. Purtroppo quella parte non la vedo. Sono cieco a quella parte. Perché ti arriva a livello QRM, Eugenia? Arriva, insomma, abbastanza forte. Io lì da sia Sorso, anche Sorso Franco mi arriva basso lo stesso, 2-3 di segnale. Portatore lo stesso, 1-2, 3 arriva poco fa che ha agganciato qualcosa, che ha aumentato di potenza. Alghero proprio 0 invece, Alghero non li sento nemmeno. Io quanto ti sto arrivando fra, giusto per curiosità? Sì, oltre e più dal 30. Io sono presso poco, ci manca qualche chilometro e arrivo da Sorso, vuol dire che sei proprio favorevole per me, vuol dire che qualche canale passa. Sorso è già dietro San Camillo, quindi neanche lo vedo. Ma tu sei parte alta di Sassari, dove più o meno, se da entrare nel tuo privato, più o meno? Io sono la parte più bassa di Sassari, verso Viale Porto Torres, quindi prima del cimitero, là, verso Sassari. Ah, Viale Porto Torres, ho capito, la via già la conosco. Sono di Romattoni, no? Appena più su, la zona è quella, quindi non sono nella parte alta, sono le prime case di Sassari. Quindi abiti più o meno vicino a Coso, dai, a Gianni Brocchetta. Lui è verso la stazione, io sono più verso via Pascoli. Non ho capito, va bene. Tu purtroppo, ah, lui c'è una bella posizione, caspita, è aperto, vede, si vede tutto, domina. 9.60, vabbè che è vicino, 9.60 mi arriva. Siete molto vicini voi, sì. L'ho visto a Gianni, ieri, ci abbiamo fatto una chiacchierata lì vicino al bar di Coso, di Luciano, là. Io sono un amico di Gianni. Siamo stati assieme tanto tempo. Ma noi ci conosciamo pure, non sappiamo che. Io a Gianni lo conosco, da quando eravamo ragazzini, guarda, riuscivamo in motorino. Lui usciva con Marco, quello, l'amico suo. Sì. Vabbè, io lo conosco a Gianni perché anche io la moto, quindi ci conosciamo da 20 anni, di più anche. Mi sembra che ancora c'aveva il sì, io c'avevo il bravo, lui c'aveva il sì. No, io lui ho corso con la moto mimetica. E quindi qualche anno dopo, dai. No, eravamo poco più che adolescenti, ragazzini proprio. Poi avevo preso la macchina, la patente, poi ero entrato a fare un altro lavoro e poi un po' ci siamo persi di vista. Gianni, non c'è stasera. Mimì. Attenzione, isola della Sicilia, se vai a scorciare qua l'isola della Sardegna, città di Porto Torres, città del ferro, Papa Tango, cambio. Perché città del ferro, Eugè? Tantissimi anni fa i camionisti la chiamavano così, negli anni 85, quando modulavo. La chiamavano così, la città del ferro, forse per la zona industriale, no? Non lo so, non l'avevo mai sentito, la verità. Oh, ferro ferraglia da venire, c'erano quegli impianti lì, tutti in acciaio, caspita, a voi venire a ferro? No, in quegli anni lo producevano pure. Mi ricordo le laterizie, roba di mattoni, quelle roba così. Scusate ragazzi, devo andare a cenare, ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao G. Ciao Gianni, anch'io, dai, ne approfitto, vado anch'io a Papai, magari più tardi. Ciao. Buona carica a tutti. Ciao a tutti, ci sentiamo più tardi, se coincide, ciao, un saluto alla prossimina, ciao G, ci sentiamo, ciao. Tu ci hai mangiato, G? Va, G, da me, tanto. Già è un'ora. Anch'io. Ho gente che, meno male, ho gente che mangia presto, ma gente grande, dai, mi succede. E quindi ho già dato io. Ho già rimagnato. Fatti di birretti, fatti bevere un poco da biocco. Pure io mi sono bevuto una tutta intera. Io praticamente, sì, loro bevono poco, il resto l'ho bevuto io. È fatto bene, ogni tanto un po' di baldoria. Bah, va bene così. E Luca, c'è ancora Luca? Buonasera. Gianni, buonasera. Ciao carissimi. C'è il fiatone. Ho fatto appena le scale, dai. Ci sentiamo tra un paio di minuti. Alla Canedi, sì. Stiamo parlando di te, mica, che ci siamo incontrati, visto, Cosa ti zedichi tu? Oh, chi è avanti? È un bel basso, Dalla Sicilia sempre. Sicuramente così. La grande isola. È appena più grande della Sardegna, Lo assai, no. È che sono un becco rispetto a noi. Sempre quindi giù cuccioso. Noi siamo in bar 1,5 milioni, sì, loro sono 5 milioni. La miseria. Via. Infatti non le vedi campagne come qua, campagne abbandonate. Lì sono tutte lavorate le campagne, fin sotto alle montagne. Ecco, mi sono rientrato. E avanti già. Oh, yeah. Adesso quanto va per gli scale. Oh, yeah. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Ciao Franco, dopo tanto ti ho rivisto, cazzo. Dall'epoca di Via Roma. Oh, yeah. Avanti. E perché non ci siamo più visti? No, qualche altra volta ci siamo incontrati, dai. Vabbè, una battuta, dai. Scaccia bene il microfono, sai che sei uscito un po' a tratti. Mi senti bene adesso? Sì, adesso bene. Poco fa un po' di... ho perso qualche sillaba. Proprio perché magari non lo so con la tenere troppo, dai. Un po' di giro, un po' di GRC. Cosa, in quattro cari non è faccio piattone. No, niente, stavo sistemando il giubbotto, cosa hai detto? Ho detto che io ho quattro scale, sicuramente il piattone non mi viene, perché sono abituato. Niente, io sono un po' caldo di ufficio, dai. Cappa, sicuramente anche sigaretta, burro, no? E beh, vedi un po' tu. No, sigaretta e niente. Vabbè, dai. Cosa ti devo dire? Ce l'abbiamo in fissi e li abbiamo combattuti, li stiamo combattendo e niente, dai. Santa arrangia di come ti si dice. Qualche piano già te lo fai, no, Anto? Più di qualcuno, Non è dappertutto che c'è l'ascensore. No, ma io sono abituato. Cioè, se io faccio quel piano a piedi non sono niente per me. Io mi ricordo, no, prima andavo anch'io a bombole qua e abito al primo piano lì. Mi portavo quelle da 25 a casa e pesavano, ma tutti. Quanto pesa una bombola da 25? Bucia tutto. Dipende. Generalmente pesa 58 kg, però dipende, 53, 50, dipende dal ferro, 50, alcune anche 60. E io che me ne ricordo pesanti, io andavo con due bomboloni, dai, anche se li attaccavo prima uno e poi l'altro, però me li tenevo sempre di scorta. Anche li pigliavi. Ah, dove le prendevo? Ne ho preso le ultime, insieme le ho prese in viale Portatore da Corso, lì alla Tana. Ah, da Torre. Sì, da Torre Chessa. Ah, conosci a Saturno? Torre già lo conosco, sia lì a Tana, sia a Orsi, al locale di Orsi. Anche lui in mezzo alla musica, faceva serate così, a mangiare, a ballare. Parlava pure in radio, me. Dove? Qua. No, in che radio? Ah, radio CB. Dove è Saturno, anni fa si chiamava. No, non mi ammetto, dove è Saturno? Non mi viene in mente niente. Quanti anni fa? Molti anni fa, me l'ha detto e dopo l'ha detto. No, non ce l'ho presente, Torre Saturno. Mi ricordo Torre San Giovanni, che beh, modulava a San Giovanni. La casa mi fa dire che tu pure, mamma mia. Ma cosa? Ehi, Tiriosa, la mania della potenza, della forza, portante, no, che qua, mamma mia. Ma capo della portante non è un uomo. A me mi piace, la mania della forza mi piace trasmettere forte in lontananza. Ma non, ma la portante non mi piace, va. Sono cretinate. Ma prima poi degli anni 70-80 c'era un bel di gente, cioè le ruote erano tutte piene, con 10-20 persone ogni ruota. Era una cionfra, a gara che passava, passo io, passi tu, si mettevano le portanti uno sopra l'altro, capito? Si sovramodulavano, un casino era. Passava che avevo un lineare più grosso. Tutti buttavano, tutti con lineari grossi. Vabbè, passava le scorraglie, ne bigiava tutto. Ehi, qualcuno già ci ha rimesso sacco e sale, qualcuno ha fatto in tempo a metterli sotto il letto, dentro l'armadio. Attaccarmi, trattarli quando lo devi usare e basta, perché poi alla fine le spie che si facevano pure.